Rassegna Stampa Europa. Buongiorno ancora, buon sabato da Giulia Crivelli e rieccoci per il nostro appuntamento con la rassegna stampa Europa, quindi questioni europee come vengono trattate dai giornali europei. E come sempre vi dico, c'era quel sito presseurope.eu che si è trasformato, ma solo nel nome del dominio, in voxeurope.eu, e però continua a fare quest'opera meritoria di monitoraggio della stampa europea su temi europei, quindi la stessa cosa che cerchiamo di fare noi. E in questi giorni, se andate a vedere il sito, c'è un intervento sull'home page di Gianpaolo Accardo, che ne è il direttore, ma è anche un giornalista italo-olandese che anche collabora anche in Italia con Internazionale, e che spiega come Vox Europa abbia aderito al progetto Open Europe, che raggruppa diversi mezzi di informazione, e spiega anche in questo editoriale come naturalmente al centro dell'interesse della maggior parte dei giornalisti europei oggi dovrebbe esserci il tema della migrazione. E scrive: se l'Europa, già terra di emigrazione, è stata per decenni la meta privilegiata per coloro che, a partire dai cittadini delle sue ex colonie, cercavano un futuro migliore, oggi è un punto di riferimento per coloro che, siriani, libici, eritrei o iracheni, fuggono dalle persecuzioni e dalle guerre. Guerre nelle quali gli altri paesi europei, sia per il loro intervento come in Iraq e in Libia o per la loro indifferenza, hanno avuto un ruolo. I paesi membri hanno dunque una responsabilità, se non giuridica, morale, sempre che questa espressione abbia ancora un senso in politica, e in quanto responsabili dovrebbero dare un'ulteriore prova di sollecitudine e di generosità quando si tratta di esaminare le richieste di asilo dei profughi. Ecco, questo mi è sembrato un tema interessante, perché appunto forse ci dimentichiamo, i nostri politici si dimenticano un po' troppo spesso, soprattutto quando parlano di Iraq, il ruolo che ha avuto l'Europa nel risolvere in qualche modo la situazione irachena e dopo la caduta di Saddam Hussein, o per quanto riguarda la Libia nella deposizione di Gheddafi, che sicuramente era un dittatore, e poi però nel non riuscire a trovare un modo, anche accordandosi con altre grandi nazioni come gli Stati Uniti o con organizzazioni internazionali come l'ONU, non accordandosi per trovare in qualche modo una soluzione. Le Monde cita anche in questo caso tutti i dati più recenti, quindi l'esodo verso l'Europa e anche le decisioni della Commissione europea, che da mesi spinge per un meccanismo di redistribuzione dei profughi e che ha di nuovo lanciato un appello ai 28 paesi membri chiedendo 40.000 ricollocamenti, che però sono ancora pochi di fronte alle cifre di questi giorni, abbiamo visto, in arrivo da Grecia, Balcani, Ungheria e Canale di Sicilia. E Le Monde cita le parole di questa settimana, e non solo, del ministro degli esteri nostro Gentiloni, che come sapete invoca, anche per naturalmente è una posizione in linea con quella del premier Renzi. Gli interventi sono stati numerosi in questa settimana, in cui tra l'altro sono intervenuti molti politici, sono intervenuti al meeting di CL o alla festa dell'unità o altre feste o altre riunioni così di fine estate. Appunto, Le Monde parla positivamente di questa posizione molto chiara che ha preso il governo Renzi e in particolare il ministro Gentiloni, invece critica molto le chiusure di Francia e Gran Bretagna, invitando l'Europa a ritrovare l'anima, e cita anche naturalmente la svolta, possiamo dire così, di Angela Merkel, di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni, che ha deciso di, comunque, nonostante l'Unione Europea debba ancora rivedere, o comunque la Commissione debba avere il sì di tutti i paesi per rivedere queste famose quote degli aventi diritti d'asilo, la Germania ha deciso di alzarle autonomamente, soprattutto per quanto riguarda i siriani. Sempre sulla pagina di Press Europe, di Vox Europe, scusate, viene riportata una vignetta che invece riferisce un po', cerca di riassumere l'atteggiamento che sta avendo il governo di David Cameron verso i migranti. Tra le molte notizie di questa settimana c'è quella che potrebbe essere previsto il carcere per gli immigrati clandestini in Gran Bretagna. Allora la vignetta vede David Cameron che infila la sua mano armata di pistola attraverso l'Eurotunnel, quello che corre sotto la manica e che collega Gran Bretagna a Francia, e ricorderete nelle prime settimane di agosto i tanti tanti disordini a Calais, cioè dalla parte francese dell'Eurotunnel, e la mano spunta appunto da questo Eurotunnel con una pistola. Sono infatti ancora migliaia, hanno scritto i giornali britannici, i migranti bloccati a Calais in attesa di riuscire a entrare nel Regno Unito, tentando però di attraversare clandestinamente il tunnel sotto la Manica. Secondo un recente sondaggio di YouGov, la maggioranza dei britannici e dei francesi, rispettivamente il 67% e il 54%, sarebbero favorevoli all'invio dei militari da parte del governo britannico per sostenere le autorità francesi nel mantenimento dell'ordine a Calais. Il premier britannico, hanno ricordato molti giornali, aveva descritto i migranti come uno sciame di gente che vuole entrare nel Regno Unito per ottenere lavoro e una vita migliore, e su questa parola sciame era stato molto criticato anche nel suo paese. La Süddeutsche Zeitung si occupa a sua volta di immigrazione, in particolare con un'intervista all'ex ministro tedesco degli esteri Joschka Fischer, che ha detto ancora una volta che è sbagliato lasciare sole Italia e Grecia, in particolare, che durante l'estate in particolare sono i paesi di le destinazioni della maggior parte dei migranti dall'Africa. Scrive Joschka Fischer: nessuno crede davvero che i singoli stati membri possano risolvere questo problema alla lunga da soli. Questo vale ancora di più se Italia e Grecia, stati particolarmente colpiti ai confini del sud, verranno lasciate sole. Serve uno sforzo europeo comune, negato da molti paesi. E sull'emergenza immigrazione in Europa ha scritto anche il New York Times, dicendo che l'Unione Europea in particolare ha fallito, lasciando sole di nuovo Roma e Atene, cioè Italia e Grecia. Bruxelles, scrive il New York Times, l'editoriale del New York Times, non solo non è riuscita a elaborare un sistema condiviso di quote, ma alcuni paesi, Francia e Germania in particolare, hanno fatto di tutto per fermare la gente alle loro frontiere. L'Unione Europea ha fatto poco per aiutare le due nazioni dove tanti rifugiati sono sbarcati, l'Italia e la Grecia. L'auspicio, scrive ancora il New York Times, è che la tragica scoperta dei morti nel Tir in Austria sciocchi quei paesi europei che fino ad ora si sono rifiutati di intraprendere quelle azioni concertate, sollecitate anche dalla cancelliera Angela Merkel, che sono così palesemente necessarie. Dal Financial Times una notizia su un tema leggermente diverso, che è quello dell'innovazione. Abbiamo parlato nella rassegna stampa italiana di come l'America abbia puntato tantissimo per far ripartire la sua economia, e ricordiamo che il dato sul secondo trimestre del PIL americano ha sorpreso tutti in positivo, perché è più 3,7%, il più alto praticamente nel mondo in questo momento dopo il dato cinese. Ecco, allora, in tema di innovazione, l'Unione Europea ha assegnato 36 milioni di euro a 16 progetti innovativi che puntano a far sbarcare presto le loro idee sul mercato. La notizia però cattiva per noi è che la Germania domina la lista dei bandi, ha messo in campo 13 partner ed è seguita da Francia, Olanda e Gran Bretagna, e invece l'Italia purtroppo è agli ultimi posti. Altri articoli che vi segnalo sempre sulla questione dell'immigrazione, questa volta da Internazionale, che è in edicola da ieri. La copertina è dedicata all'inchiesta a proposito di New York Times, che ha fatto molto parlare, un'inchiesta del New York Times lunghissima e dettagliatissima sulle condizioni di lavoro da Amazon. L'Internazionale l'ha tradotta interamente, così ognuno può farsi effettivamente un'idea, perché poi sullo stesso New York Times, a cura del public editor, che è la persona incaricata esterna al giornale di raccogliere lettere, le proteste dei lettori e poi in qualche modo renderne conto sul giornale, non tutti i lettori del New York Times hanno apprezzato questa inchiesta, ma il New York Times ha poi dato conto anche di questo. Anche Internazionale racconta questo ulteriore risvolto, quindi la copertina è dedicata a quello. Però all'interno trovate tradotto un articolo tratto da Globus, una magazine macedone, e che racconta i profughi in viaggio attraverso l'Europa, e in particolare il transito dei migranti nei paesi dei Balcani, che è gestito in modo inumano e inefficace. Servono risorse e una strategia comune, e ancora una volta ci concentriamo spesso, soprattutto in estate, sul corridoio mediterraneo, poi però appunto c'è anche questo corridoio balcano, ed è attraverso i Balcani che riserva altrettanti orrori, ed è anche questo costellato di morti. Per quanto riguarda la questione della Grecia, la Grecia andrà elezioni anticipate il 20 di settembre, pare confermata la data, e Katimerini, quindi uno dei quotidiani greci, e anche in questo caso la traduzione la trovate su Internazionale di questa settimana, racconta appunto la Grecia che torna alle urne. E vi leggo le prime righe. Dopo soli 7 mesi dalle elezioni, la Grecia ha deciso che andrà di nuovo a votare. Il primo ministro Tsipras si è dimesso il 20 agosto, ha convocato le elezioni per il 20 settembre. Il comportamento ridicolo dei politici greci tradisce il desiderio di non guardare in faccia la dura realtà, che richiede un doloroso e sistematico sforzo per applicare un programma che tutti sostengono necessario, ma allo stesso tempo cercano di boicottare. E l'ultima segnalazione che vi faccio a proposito di tecnologia, la trovate, era un articolo uscito ieri sulla Stampa, parla dello scontro tra Google, il colosso delle ricerche e non solo, e l'Unione Europea, che ha aperto un'indagine contro Google perché si chiede più concorrenza nell'e-commerce, ma Google contrattacca, l'UE si sbaglia con noi. La cronaca di Marco Zatterin, corrispondente da Bruxelles, e poi anche tutti la situazione di Google e come Google da una parte ha paura di questa inchiesta, dall'altra vuole convincere che non ha una posizione dominante. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Un buon sabato da Giulia Crivelli. Ci risentiamo domani per i quotidiani italiani. Rassegna Stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.